sul volumi del fatto fosse cifra in mortal mio disegno. Ed io d'onor caduco e sempre in me. Immortal, furto veracce.